vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 12 febbraio, il sole in regione è sorto alle 7.11 e tramonterà alle 17.39. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Quali e come affrontare le urgenze del mondo agricolo in questo inizio 2023? È la domanda che abbiamo rivolto al direttore di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, Cesare Magalini, nel servizio di apertura di questa puntata. A seguire evoluzioni e recessioni della prassi di utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura con un focus sui biostimolanti. Si parla invece delle malattie del vino nella rubrica dedicata, evidenziando che gran parte dei danni si fanno in cantina. In campagna è tempo di pulizie che spesso si fanno con il fuoco, ma ci sono norme precise su come farlo. Il punto nella rubrica dei forestali, per passare poi ai lavori da fare in orto in questo mese di febbraio e all'universo delle frittelle possibili in questo periodo carnevalesco con una succulenta proposta allo zabaione. Andamento dei mercati agricoli in regione, previsioni del tempo per la settimana in entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Continua il viaggio di Vita nei Campi tra le urgenze che il mondo dell'agricoltura deve affrontare in quest'inizio di 2023. Oggi l'analisi ce la fa Cesare Magalini, il direttore di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Primi provvedimenti da farsi subito. Aumento dei costi, l'inflazione che è ancora robusta, credo anche per più di qualche mese. Ci si augura che il mercato, poi dico, dei prezzi di tutte le varie dei prodotti sia, insomma, buono. Da parte nostra dico, ecco, dopo la pandemia gli stati hanno scoperto l'importanza del cibo. Questo va, io dico, è una carta in più da giocare per l'agricoltura friulana ma anche italiana. Questi sono mesi anche che si parla di PAC, di politica agraria comunitaria, e qui si deve inevitabilmente parlare di burocrazia. Quest'anno è l'inizio di un nuovo periodo di programmazione, è più di qualche mese che stiamo lavorando di concerto, diciamo, con la Regione, comunque con lo Stato, per mettere a terra di tutte quelle opportunità finanziarie che poi si tramutano anche in linee operative per le nostre aziende. Dalla parte c'è sempre un nuovo carico di burocrazia, ma dico anche in questi aspetti bisogna capire anche le opportunità che possono uscire da nuovi regolamenti, che bisogna un attimo adattarli, io dico, anche alle esigenze del territorio, e si può fare. Parlando di punti di debolezza, sicuramente quello del settore zootecnico dell'allevamento forse è il principale. Beh, allora il settore zootecnico è vero, è più di qualche anno che soffre, diciamo, per quanto riguarda l'aumento dei costi. In questo momento il latte, insomma, ha un prezzo migliore degli ultimi anni, però soffriamo anche qua di tutto l'approvvigionamento delle materie prime, del vita foraggere, dei costi, aumento di energia che sui allevamenti è molto importante. E poi, non da ultimo, dico quello che è tranciando per tutti è l'aspetto clima, che qua stiamo vivendo anche in questo ultimo periodo, io dico anche una carenza di precipitazioni che ci preoccupa ancora. Parlando di poche precipitazioni, si deve parlare di acqua e di irrigazione, quindi? L'irrigazione è il fattore principale per il nostro comparto, io dico anche però per l'acqua, diciamo, per uso umano. Allora, noi abbiamo fatto un 2022 difficile, critico, siamo riusciti attraverso un buon lavoro dei consorzi di bonifica a lenire i danni. In tante aree l'acqua è arrivata, in alcune non è arrivata e aveva avuto danni, però questo, dico, dobbiamo imparare da queste criticità che abbiamo già vista noi nel 2003, ma va imparata la lezione del 2022 di mettere a terra progetti che portano l'agricoltura Friuli Venezia Giulia avanti nel tempo, dire allora immacinarla quando ce n'è in più in eccesso e gestirla in maniera differente quando, diciamo, nella parte estiva c'è il maggior consumo. C'è capacità, c'è grande operatività e ci sono anche opportunità concrete fatte con progetti cantierabili. Brevemente, infine, parlando di un settore che invece sta bene, ha buona salute, quello vitivinicolo, però c'è qualcuno che ci vuole mettere qualche bastoncino tra le ruote. Lì è una cosa che ci dà veramente fastidio, perché mettere l'etichetta che il vino nocce alla salute, sotto c'è proprio una lobby che parte dal cibo sintetico, da mettere al nocce sulla salute al vino, una lobby che vuole mettere tra virgolette in difficoltà il Made in Italy. Made in Italy è importante per il nostro paese, le esportazioni sono più di 60 miliardi all'anno, il falso Made in Italy, Italia Sounding, è vale 100, quindi qualcuno vuole mettere le mani speculando sui nostri interessi. A queste battaglie noi non ci stiamo, stiamo alzando barriere, per fortuna con noi c'è anche la politica, quindi l'avranno dura tra virgolette. Poi il consumo, diciamo, nostro vino è moderato e intelligente, il consumo di superalcolici in altri paesi non è come il nostro. Cambiare strumenti ma anche mentalità nella difesa delle colture è il tema che sviluppa oggi Cristina Micheloni nella rubrica del bio, con particolare attenzione ai biostimolanti. Che i fitofarmaci non facciano bene né a noi né all'ambiente ormai dovrebbe essere di trasversale consapevolezza. Ovviamente con tutti i distinguo e le precisazioni del caso, non tutti i prodotti sono uguali e non tutti i modi di utilizzo comportano le stesse conseguenze. Però ci sono molteplici segnali che spingono alla loro riduzione, come il contestato piano europeo per l'uso sostenibile dei fitofarmaci e conseguente loro drastica riduzione entro il 2030. La recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che vieta agli Stati membri l'autorizzazione di deroghe proprio sull'utilizzo non conforme dei fitofarmaci, tanto per aver contezza della dimensione del fenomeno. Le deroghe sono state 236 tra il 2019 e il 2022, di cui 14 richieste dall'Italia. Troppe, spesso non giustificate e ancor più spesso non monitorate poi da chi le ha richieste. In sintesi, un modo per bypassare la legislatura comunitaria e prendere tempo. Inoltre c'è l'evidente spostamento anche degli interessi economici delle grandi ditte produttrici di fitofarmaci, che ormai registrano poche nuove molecole di sintesi e molte più sostanze naturali. Infine, la convinta spinta da parte della Commissione europea, un po' meno da parte del governo nazionale e regionale, verso l'agricoltura biologica, che permette, tra le altre cose, una forte riduzione dei fitofarmaci più pericolosi e l'indirizzo verso metodi agronomici e sostanze naturali. Tutto questo processo va avanti da diversi anni e ha permesso di mettere a punto diversi strumenti alternativi, che sono già disponibili sul mercato e già in uso da parte di agricoltori più attenti e preparati. Però molte di queste sostanze sono proprio diverse da quelle a cui gli agricoltori sono abituati. Per lo più, infatti, non hanno un'azione diretta verso il patogeno, per dire la peronospora o l'oido, ma agiscono sulla pianta in modo che essa stessa produca delle molecole che mettono la pianta stessa in grado di resistere, magari non in modo totale, agli attacchi di funghi e batteri. Queste sostanze appartengono alla grande famiglia dei biostimolanti o induttori di resistenza. Sono per lo più aminoacidi o proteine, alghe o acidi umici o fulvici, o altre sostanze di origine vegetale o microbiologica. La cosa importante da sottolineare, però, è proprio il meccanismo d'azione la chiave, che se non viene compreso rende vano ogni utilizzo. Tanto per dire, i tempi sono diversi in anticipo rispetto alla lotta diretta, proprio per permettere che la pianta attivi i processi metabolici voluti, ma anche le condizioni di temperatura e umidità hanno una grande importanza. Insomma, avere a che fare con cose vive è sempre molto più complesso che produrre bulloni, e come sempre ius sunt. Ecco dunque un'opportunità, l'incontro del 14 febbraio a Pozzuolo, la seconda edizione della giornata di aggiornamento sui prodotti per la difesa delle piante in agricoltura biologica, vi lascio i dettagli sulla pagina Facebook, e anche sempre sulla pagina Facebook un ricco, breve ma ricco sunto sul tema dei biostimolanti attraverso un video. Sono tante le malattie del vino, per la gran parte riconducibili ad errori in cantina. Ce le illustra il professor Roberto Zironi. Le malattie di natura microbica provengono quasi tutte da batteri, a parte la fioretta data dai lieviti. Le contaminazioni microbiche avvengono prevalentemente in cantina e sono veicolate dal moscerino della frutta. Se durante la fermentazione alcolica la temperatura si incrementa fortemente, i lieviti vengono inibiti e possono sviluppare dei batteri eterolattici che trasformano il fruttosio in un composto dolce, il mannitolo, insieme ad acido lattico ed acetico. A questo punto il vino presenta una componente organolettica agra dovuta agli acidi e dolciastra dal mannitolo. Questa malattia viene chiamata agrodolce o spunto lattico. Nei vini bianchi con basso grado alcolico ed acidità e con residuo zuccherino, i batteri lattici responsabili della fermentazione malolattica possono proliferare sintetizzando i destrani. Questi composti sono responsabili di una caratteristica viscosità del vino che, se versato, fila come l'olio. L'alterazione in questo caso prende il nome di filante e non modifica la composizione del vino e dei suoi caratteri organolettici, ma predispone ad una malattia molto più grave, il girato. In questo caso, i batteri eterolattici degradano l'acido tartarico e i suoi sali, con produzione degli acidi acetico, lattico e succinico. Il lino assume un intenso gusto acido dovuto a questi acidi, ma soprattutto è rancido a causa della formazione anche degli acidi propionico e butirico. Infine, nei vini rossi anche in bottiglia, i batteri eterolattici possono degradare la glicerina con formazione di acroleina ed altri metaboliti. L'acroleina, reagendo con i polifenoli del vino, forma un composto dello sgradevole sapore amaro, da cui il nome della malattia, amaro o amarore. Non esistono rimedi per queste malattie, ma come abbiamo già visto, il controllo termico della fermentazione degli inquinamenti microbici in cantina è oggi puntuale ed accurato, quindi la comparsa di queste malattie batteriche è improbabile. Nelle cantine si può invece osservare occasionalmente sulla superficie del vino la formazione di un velo biancastro rugoso che si riduce in piccoli frammenti che ricordano i petali dei fiori. L'alterazione è prodotta da lieviti aerobi ed è chiamata fioretta. Si manifesta nei vini poco alcolici conservati in recipienti scolmi, a contatto con l'ossigeno e provoca la diminuzione di alcol etilico con formazione di aldeide acetica. I lieviti della fioretta consumano anche l'acido acetico, ma gli acetobatteri che accompagnano spesso gli agenti della fioretta ne incrementano il contenuto. Infatti questi batteri, in presenza di ossigeno, ossidano l'alcol etilico con formazione di acido acetico che, esterificando con l'alcol etilico, produce l'acetato di etile, dal caratteristico odore pungente acetoso. L'alterazione è chiamata spunto acetico e, quando l'ossidazione dell'etanolo all'acido acetico arriva a stato avanzato, diventa acescenza. L'ossidazione acetica dell'alcol, che va evitata nella vinificazione, è sfruttata invece industrialmente nella produzione degli aceti. Sono più che mai d'attualità in questo periodo le operazioni di pulizia dei fondi agricoli tramite il fuoco. Ci sono però ben determinate regole da seguire. Ce le illustra Dario Di Gallo, ispettore della Forestale. In questo periodo, tradizionalmente, hanno inizio le operazioni di ripulitura dei fondi dai residui ligneo-cellulosici, con sfalci, potature o altre lavorazioni agricole forestali, che una volta accumulate possono poi venire smaltite con l'utilizzo del fuoco. Presupposto stabilito dalle norme per queste operazioni è che l'abbruciamento si svolga per piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori ai 3 metri steri per ettaro, ad almeno 20 metri di distanza da aree boschive o terreni incolti con rovi, arbusti o vegetazione erbacea seccaginosa non più soggetta a sfalci, con il reimpiego in loco nel ciclo colturale di provenienza delle ceneri come sostanze concimanti e ammendanti. Qualora il fondo in questione sia ubicato nelle zone considerate a rischio incendi boschivi dalla legge regionale 17/2019, bisognerà preventivamente confrontarsi con la stazione forestale competente per territorio, che darà tutte le prescrizioni necessarie al corretto svolgimento dell'accensione del fuoco. Non possono essere bruciati, nel qual caso si configurerebbe un'ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti, ma vanno invece smaltiti in discarica i residui vegetali provenienti da aree verdi quali giardini pubblici o privati, parchi e aree cimiteriali, per i quali, essendo questi materiali classificati come rifiuti urbani, è preclusa qualsiasi possibilità di reimpiego nel ciclo culturale di provenienza. Diverso è invece il caso dei residui vegetali derivanti dalle coltivazioni degli orti, per i quali, essendo questi ubicati per lo più in aree classificate come urbane, si applicano le disposizioni e i divieti dei vigenti regolamenti comunali di polizia urbana o di polizia rurale. Nella prossima puntata vedremo nel dettaglio le prescrizioni che il responsabile delle operazioni di abbruciamento dovrà osservare. Che fare in orto nel mese di febbraio? Ce lo dice nella sua rubrica Sara Bosco. Febbraio rappresenta un tempo dedicato alla preparazione dei terreni, come abbiamo visto nella puntata di 15 giorni fa, in vista dell'imminente avvio delle attività orticole, alla raccolta dell'orticola autunno-vernile e alla semina dei primi ortaggi. In pieno campo, se le condizioni meteo e del suolo lo permettono, si possono effettuare le letamazioni o gli apporti di compost verde subito dopo con la ratura. Chi possiede delle asparagiaie può approfittare, se il tempo e il terreno lo permettono, di preparare le prose e di ricoprirle con un telo nero pacciamante. Potrà così far accumulare del calore al terreno e anticipare di alcuni giorni l'inizio delle raccolte. A fine febbraio si può già procedere alla semina del pisello, un legume che resiste bene al freddo e alle malattie. germina facilmente e arricchisce i nostri terreni di azoto. Prosegue in questo periodo la raccolta di diverse varietà di radicchio, di porri tardivi, cavolfiori, verzen, cavoli di Bruxelles e se le temperature non sono troppo rigide si possono raccogliere anche i broccoletti presenti alle ascelle delle foglie una volta che viene tagliata diciamo l'infiorescenza principale. Si può continuare anche la raccolta dello spinaccio sia in pieno campo che in tunnel. Inoltre si può provvedere alla semina dello spinaccio primaverile di rucola valerianella, preferibilmente in tunnel. Mentre si può effettuare la semina in semenzaio di cipolla, setano e delle prime colture primaverili. È importante però che i contenitori di semina siano posti in un ambiente adeguatamente caldo, altrimenti è meglio attendere un paio di settimane affinché le temperature siano più miti e quindi più adeguate alle nostre colture. Fritulis col Zabaion, questa è la proposta carnevalesca di oggi di Roberto Zottar, che ci parla anche dell'universo delle frittelle tradizionali friulane. Con l'arrivo di febbraio, con l'aria pungente e qualche bella giornata di sole, si fa strada anche quell'atmosfera tipica del carnevale con i suoi dolci fritti caratteristici. La contessa Perusini, nel suo testo Mangiar e ber friulano, ne annovera molti, ci sono i crostoli e i ravioli fritti, cioè quei dolci ripieni simili ai famosi raffioi dolci. Ci sono molte ricette di fritulis, frittelle, che lei ricorda come uno dei dolci più popolari e anche più antichi del Friuli, tanto che, ricorda, si trovano loro riscontri nel libro di cucina del XIV secolo e nel De honesta voluptate et valetudine del Platina. Questo libro è del 1485, il primo testo a stampa in assoluto del Friuli, edito da Cividale ed è di cucina. Oltre alle fritole di pasta al lievito, quelle per capirci piene all'interno, Perusini riporta anche delle frittelle dolci che sono vuote. Lei commenta queste frittelle dicendo che ora sono chiamate bignè, ma altro non sono che le nostre frittelle di impasto più semplice, ribattezzate con nome francese. Oggi vi presento quindi frittelle che sono realizzate con pasta da bignè fritta, o, detto meglio in francese, come pâte à choux, che, essendo vuote, si riempiono dopo fritte di tanta golosa crema, e attenti nel mangiarle, perché la crema vi può colare appena le addentate. Ma dato che con le ciacole non si impasta frittole, passo subito alla ricetta. In una casseruola fate bollire 200 g d'acqua con 30 g di burro e 20 di zucchero e un pizzico di sale. Unite tutto in una volta 140 g di farina e mescolate con una spatola fino a che l'impasto si stacca dalle pareti della pentola. Dal fuoco e incorporate una ad una 3 uova grandi o 5 piccole, altri 70 g di farina, 2 cucchiai di rum, scorza grattugiata di limone e arancia, 40 g di uvetta, 40 g di scorza candita d'arancia a cubetti e, segreto, un pizzico di ammoniaca per dolci presa in farmacia. Prendete la pasta a cucchiai e friggetela in olio a 180 gradi. Una volta dorate, scolate le bignole con una schiumarola e passate nello zucchero semolato. Per farcirle, fate una crema allo zabaione montando bene 8 tuorli con 235 g di zucchero e aggiungete 45 g di farina. Scaldate 260 g di vino marsala secco con 70 g di vino moscato. Versate i tuorli montate e portate a bollore. Raffreddate velocemente questa crema, che è una versione moderna dei dolci zabaion della contessa Perusini, e farcite poi con generosità le frittelle. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi cedenti, ma con la soia in rialzo. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14%, è stato quotato tra 29,20 e 29,50 euro il quintale, IVA esclusa. Il frumento tra 29 e 29,50, lordo peso specifico 62,65, tra 26 e 26,50, e la soia tra 53 e 50-54 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato 2,40 euro il quintale e la soia è diminuita di 5 euro. Passando ai bovini da macello, le ultime quotazioni hanno confermato le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto fra 3,20 e 3,70 euro il chilo IVA esclusa, quelle di seconda fra 2,60 e 3,20. Ferme pure le contrattazioni nel settore dei vitelli da ristallo, dove i Bubelga maschi vengono quotati tra 5,60 e 6,10 euro il chilo IVA compresa. I pezzati rossi tra 4,10 e 4,50, i frisoni tra 1,60 e 1,90, i bruni alpini tra 1,50 e 1,70. Rispetto ad un anno fa, le vacche fine carriera sono aumentate di 50 centesimi il chilo, mentre i vitelli da ristallo pezzati rossi sono diminuiti di 20 centesimi. Mercato con dinamiche diversificate invece nel comparto suinicolo, con i latonzoli di 30 kg quotati franco partenza a 3,89 euro il chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,80. Prezzi stabili invece nel settore dei foraggi, il fieno mazzengo di pianura viene quotato tra 18 e 21 euro il quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità tra 34 e 35 euro, mentre la paglia di cereale pressata in lieve calo viene pagata tra 10 e 12 euro il quintale. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. La prima decade di febbraio ci ha riservato condizioni di tempo nettamente invernali. Già nei primi giorni l'afflusso di correnti fredde settentrionali ha provocato raffiche molto forti in montagna, fino a 150 km/h sul monte Zoncolan, e anche a Forni di Sopra ci sono state raffiche oltre i 100 km/h e vento piuttosto raro a fondovalle. Successivamente in settimana hanno prevalso correnti fredde da est-nord-est, con la bora che sulla costa è arrivata fino a 100 km/h. Le temperature minime sono scese fino a meno 8 gradi in pianura, fra i meno 10 e i meno 15 in montagna, con il consueto record registrato nel Tarvisiano a Fusine con meno 20 gradi, raggiunti mercoledì scorso. Anche sulla costa le temperature sono scese sotto zero, con delle scenografiche brinate anche in spiaggia la settimana scorsa a Grado e a Lignano, e anche presso la stazione di Trieste e Molo Fratelli Bandiera, lui influenzata dal mare, lunedì scorso siamo scesi, seppur di solo 2 decimi sotto lo zero, e ciò non accadeva da 2 anni. Nella giornata di oggi un debole fronte attraverserà le Alpi orientali e scivolerà rapidamente verso il basso Adriatico, portando a tratti un po' di nuvolosità, che dovrebbe però dissolversi già nel pomeriggio, quando tornerà a soffiare bora moderata, prima sul Carso, poi anche sulla costa e sulle altre zone orientali. Da domani l'anticiclone si consoliderà ulteriormente sull'Europa centro-occidentale, favorendo condizioni di decisa stabilità atmosferica, ancora con valori di pressione piuttosto elevati anche al suolo. Avremo giornate con cielo in prevalenza sereno, almeno fino a mercoledì, con marcata inversione termica nelle ore notturne. Lo zero termico salirà fino a 3.000 metri di quota circa, ma nel fondovalle e in pianura di notte si scenderà sotto zero, mentre di giorno in pianura e sulle zone collinari potremmo arrivare a 12-14 gradi, un po' meno invece sulla costa. La bora moderata sulla costa ci accompagnerà lunedì mattina, mantenendo così inizialmente l'atmosfera ancora molto secca, ma nella seconda parte della settimana potremo avere progressivamente condizioni più favorevoli al ristagno di umidità nei bassi strati, con la formazione di foschie o nebbie che a partire dalle lagune di Marano e di Grado potrebbero poi interessare anche le altre zone di pianura della costa, ma tale evoluzione è ancora molto incerta. La tendenza per la fine della settimana, al momento decisamente poco attendibile, potrebbe essere favorevole all'ingresso di un fronte atlantico, ma è necessario seguire costantemente gli aggiornamenti. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Se al neve a San Valentin, tal caratel non entra il vin, ovvero se nevica il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, nella botte non entra vino, sarà una brutta annata in vigna. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.